gradino. D'Agostino. Sintonizzati su volume. Dedicare una canzone? Non mi rompere il marrone. took into my heart. Please don't forget it. Try to see you by my side. You are the music. Hey, I'm ready for your vibes. You don't believe me. We will never be apart. Machine to not breathe. Alla fine tutto torna, lui poi scopre che ha le corna. Thank you. siamo mezz'oretta. Solo ritmo e niente fretta. Il programmino è finito, leccatevi il dito.